140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Parole dintorni, ufficio stampa, Milano. A 2 anni di distanza dal suo ultimo lavoro in studio, il cantautore Luca Gemma torna con un nuovo album, La felicità di tutti. Il titolo della canzone che apre il disco, che è appunto La felicità di tutti, alla fine legava con un filo conduttore tutti e 10 brani ed era esattamente quello che volevo dire. Quindi prima di tutto quella lampadina si accende a me e mi dice ok, quello è il significato. E il significato è questo, ovviamente non è una constatazione dei fatti, cioè non è che io guardandomi in giro come faccio abitualmente, perché anche sia per vivere che per scrivere le canzoni, pensi sia impazzito pensando che ci sia tutto questo dispiegamento di felicità, il contrario. E però proprio per questo è un'utopia, un'ambizione. Umani con le stimmate dei santi e cani travestiti da cantanti, vogliamo tutti quanti soltanto essere felici e andarcene su un'isola. Un pezzo in si maggiore e il mondo sembra quasi quasi bello, un po' più uguale, un po' migliore. Ho letto una recente definizione di te, un animo gentile tropicalista. È molto carina questa, mi sembra molto ficcante e precisa, gentile tropicalista. Sì, tropicalista credo che fosse riferito proprio al fatto che soprattutto in questo album, ma qualche volta era già accaduto nel passato, io abbia messo dentro elementi che vengono da questo tipo di cultura musicale, per cui dei ritmi diciamo latini, che poi sono afro-latini perché da lì derivano comunque, quindi un po' l'afro-blues eccetera, l'uso delle congas, di certe sonorità, di certe pelli eccetera, quindi questo credo che fosse riferito proprio a un po' alla contaminazione musicale che c'è in questo album. L'animo gentile, ma credo che mi corrisponda, sì, abbastanza. Non sono uno che, cioè, preferisco nettamente la gente, credo che anzi gesti di gentilezza gratuiti ne andrebbero fatti anche di più nella quotidianità, quindi non mi vergogno di essere una persona mediamente gentile, poi mi arrabbio anch'io seriamente, ovviamente. L'avventura di questo album è partita dall'estero, adesso sarà in giro però da queste parti? Sì, io da qualche anno a questa parte, più o meno dal 2013 se non sbaglio, ho preso questa buona abitudine di andare a suonare abbastanza spesso in Francia, cosa che ho continuato a fare anche con questo disco. Le prime date le abbiamo fatte lì ed è stata proprio una forma di rodaggio francese, perché come dico da anni non è poi proprio sufficiente la possibilità di, cioè non basta poter suonare solo in Italia, soprattutto per chi fa musica di una certa nicchia come me. Esportare la gentilezza, perché no? Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Luca Gemma. L'appuntamento con 140 caratteri è ogni sabato alle 15. Noi ci ritroviamo tra un'ora con RadioTube.